piangere perché non m'ami più. Lo so che le mie lacrime ti fan sorridere, l'hai detto tu, perché tu non vuoi credere che non so vivere lontan da te. Finestra chiusa al mio cuore innamorato, questa notte son tornato per restare vicino a te. Finestra chiusa, senza luce e senza amore, se fai piangere il mio cuore, tu non hai pietà di me. Ritorno ancora, ma tu non mi ascolti più. Ritorno ancora, senza te non vivo più. Finestra chiusa, forse un vento di follia si portò la donna mia e non la vedrò mai più. Lo so, ti debbo perdere, lo so, ma nel mio cuore l'amore non posso uccidere, mi devi credere, non so mentire, così non posso vivere e debbo piangere per non morire. Chiusa, forse un vento di follia si portò la donna mia e non la vedrò mai più. Ma perché non torno?